Fires, un programma di blues tradizionale contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera, buonasera a tutte le mie ascoltatrici e i miei ascoltatori, un grande abbraccio da Bruno Pollacci. Siete all'ascolto di Blues Fires numero 63. E questa puntata parte subito con un mito del blues contemporaneo, Charlie Musselwhite, un cantante, un musicista che viene considerato tra i più interessanti sul piano internazionale e che stasera potremo ascoltare dal CD Sanctuary. Il pezzo che vi voglio proporre è intitolato Train to Nowhere ed è uno tra quelli più interessanti di questo particolare CD. Charlie Musselwhite per iniziare la nostra puntata. Buon ascolto. Waiting there by the side of the river, waiting there, but she did not show. Wringing his hands and shaking his head, checking his watch, it's time to go. They say the sky is the limit, reflected in the mirror of the mighty Mississippi. Shooting for the moon, crash landed in the Crescent City. Bene, ci siamo ascoltati Charlie Musselwhite, questo musicista che ormai viene considerato tra i più come dire, prestigiosi del blues internazionale, viene considerato un maestro del blues. E noi ci siamo ascoltati un pezzo intitolato Train to Nowhere, tratto dal CD Sanctuary. In effetti Charlie Musselwhite ha uno stile inconfondibile, un suo approccio vocale, un suo approccio particolarmente riconoscibile in ambito blues, e quindi gli va riconosciuta sicuramente la ricerca di una propria strada che magari così ha il suo valore anche proprio come ricerca di per sé, insomma, no? Per il fatto che si distacca un pochettino dal fare blues di tanti altri, e mantiene fede a questo suo percorso, a questa sua immagine, da molto tempo, offrendo dei pezzi interessanti così come quello che ci siamo appena ascoltati, Train to Nowhere dal CD Sanctuary, Charlie Musselwhite. Bene, adesso andiamo avanti con del blues italiano. Un new entry per quello che riguarda i nostri programmi. Il gruppo si chiama Raw Combo, è costituito da un trio formato da Michele Murante al sax, Oscar Pisanti alla batteria e Max Pieri al basso e alla voce. Il pezzo che vi faccio ascoltare stasera è intitolato A Breezy of Wind, è una composizione originale del bassista e vocalist Max Pieri. Buon ascolto. Ride, ride, you're a boulder. Bene, questo era il trio di Raw Combo formato da Michele Murante al sax, che avete sentito in questo assolo finale, molto jazz, molto improvvisativo, con grande fantasia e grande grinta, Oscar Pisanti alla batteria e poi Max Pieri al basso e alla voce, con l'interpretazione di A Breezy of Wind, una composizione originale di Max Pieri. Max Pieri è un altro musicista, prima dicevo di Charlie Musselwhite, che è alla ricerca di un, sempre stato un po' alla ricerca di un proprio linguaggio, ed ecco che anche Raw Combo, attraverso le composizioni originali di Max Pieri, ambisce ad una propria strada, un proprio approccio che non è proprio quello convenzionale del blues che più viene consumato e viene conosciuto. Quindi interessante il fatto che ci sia questa volontà di ricerca, questa volontà di rimettersi in gioco, cercando proprie strade senza rinunciare a fare blues comunque. Ripeto il titolo del pezzo, A Breezy of Wind. Il gruppo è Raw Combo, formato da Michele Murante, Oscar Pisanti e Max Pieri. La composizione era originale di Max Pieri. Adesso andiamo avanti con un altro grande del blues internazionale. Si tratta di un musicista di grande esperienza, chitarrista e vocalist, che ho già avuto il piacere di promuovere più volte nei miei programmi con le sue varie pubblicazioni discografiche. Torna a Blues Fires l'ottimo Bill Lyerly. Bill Lyerly, che ci ha inviato, tra l'altro anche con dedica, molto carino, grazie, un CD che è molto particolare proprio perché ha tutte le energie del live. Non a caso si intitola Live at Devereux, e stasera, da questo bel CD live, noi ci potremo ascoltare un pezzo intitolato Be Careful with a Fool di King e Josea, una sua interpretazione molto particolare, molto interessante, ricca di belle energie. Quindi buon ascolto con Bill Lyerly. Be careful with a fool. baby, that the streets late at night. Questo era il grande Bill Lyerly, vocalist e chitarrista americano di grande esperienza, che ha pubblicato vari CD a suo nome, ha già una carriera veramente molto importante alle spalle, in piena attività con grandi successi ovunque, e questo è il live che ha appena pubblicato proprio quest'anno nel 2015 per la Broadcast Records. Si tratta di Live at Devereaux, e il trio è formato appunto da Bill Lyerly alla chitarra e alla voce, e poi abbiamo Pete George al basso e Dex Horton alla batteria. Il pezzo che ci siamo ascoltati era intitolato Be Careful with a Fool, un pezzo di King e Josea che Bill Lyerly ha reinterpretato in trio con grande carica, con grande forza, un pezzo pastoso con dei begli assoli e dei begli interventi di vocalist. E adesso, dopo Bill Lyerly, andiamo avanti con un artista del passato, Junior Wells, che potremmo ascoltare in una registrazione tratta dal CD The Best Blues Album in the World. Il titolo del pezzo è Good Morning, Little School Girl. Buon ascolto con Junior Wells. Can I go home with you? Tell your mother and your papa I'm a little schoolboy too. Baby, I love you this morning, I can't help myself. Come on now, pretty baby, I don't need nobody else. Good morning, little schoolgirl. I'm gonna leave you, baby, about the break of day. On the kind of way you treat me, I got to stay your way. Good morning, little schoolgirl, can I go home with you? Tell your mother and your father that I'm a schoolboy too. Come on now, pretty baby, baby, come on home. Airplane and fly all over your town to tell everybody, baby, Lord knows you're fine. I can't stand it, baby, I just can't help myself. Ow! You're so young and pretty, you love somebody else. Good morning, little school girl, oh, can I go home with you? I go home. Good morning, little school girl. Can I go home? Good morning, little school girl. Can I go home? Good morning, little school girl. Can I go home? Good morning, little school girl. Can I go home? Bene, questa era la musica di Junior Wells. Junior Wells, nato nel 34, morto nel 98 a Chicago, è stato un musicista piuttosto importante del blues internazionale, armonicista e cantante, sicuramente molto grintoso, molto forte, con una bella espressività, insomma. E Junior Wells ce lo siamo ascoltati in Good Morning Little School Girl, un pezzo tratto da una raccolta molto ricca e molto interessante che si sviluppa in alcuni CD ed è intitolata The Best Blues Album in the World, Junior Wells. Adesso torniamo al blues italiano. Ci torniamo con un artista molto particolare, molto interessante, che arricchisce il suo blues con delle esperienze molto più ampie rispetto a quelle che solitamente sono le sonorità che si ascoltano all'interno del blues. L'artista in questione è Lello Panico, che si presenta per la prima volta nei nostri programmi con un bellissimo CD intitolato 50 Years Ago, un CD che mi ha molto impressionato e che vede Lello Panico insieme a Lello Panico alla chitarra, insieme ad Alessandro Guis alle tastiere, musicista, pianista e tastierista che io ho promosso molte volte nei miei programmi di jazz, un ottimo strumentista e compositore, Luca Trolli alla batteria e Francesco Luzio al basso. Il pezzo che ci ascolteremo stasera è uno tra quelli che mi ha impressionato maggiormente, ma tutto il CD è veramente molto interessante. È lo stesso pezzo che poi dà il titolo al CD, 50 Years Ago, ed è una composizione originale di Lello Panico. Tra l'altro, su 10 pezzi, 9 sono composizioni originali di Lello Panico, quindi un punto a suo vantaggio, proprio perché è un artista che è completo, che si mette in gioco, che scrive tra l'altro con originalità, e sentirete con delle performance musicali veramente molto stimolanti, molto interessanti. Lello Panico dal CD 50 Years Ago, con il pezzo che dà il titolo all'album. Buon ascolto. Bene, questa era la musica di Lello Panico. Lello Panico, che come avete sentito è un musicista molto interessante, valido come compositore, una bella composizione, questa 50 Years Ago, che dà anche il titolo all'album, come vi ho detto. Il gruppo è formato da Lello Panico alla chitarra, Alessandro Guissi alle tastiere, Luca Trolli alla batteria, Francesco Luzio al basso. La musica di Lello Panico è molto ricca, ricca di, come avete sentito, anche di buon jazz, è un blues molto interessante, molto arricchito di ottima qualità fantasiosa, creativa, improvvisativa, e quindi sicuramente si presenta come uno tra gli autori più interessanti del momento, proprio per la sua ricchezza musicale, per la sua fantasia. Lello Panico dal CD 50 Years Ago. E adesso andiamo avanti con un altro artista interessante, si tratta di Don Airey, che nel 2014, proprio fresco fresco l'anno scorso, ha pubblicato il CD Caged Up, e da questo CD noi ci potremo ascoltare Grace. Buon ascolto quindi con Don Airey. She talks when I'm looking her eyes, and Bene, questo era il blues rock di Don Airey. Don Airey è veramente uno dei più interessanti autori di blues rock del momento, una voce straordinaria, un grande chitarrista. Si tratta di una band veramente fortissima, grande nella complicità di intenti, ottimi musicisti capaci di performance solistiche sempre all'altezza della situazione, molto emozionanti, quindi è un gruppo vincente. In più questo vocalist veramente evoca i più grandi vocalist di rock della storia, quindi non gli manca niente per essere un gruppo al massimo della qualità e del riconoscimento internazionale. Don Airey, il CD è intitolato Caged Up, pubblicato nel 2014, e noi ci siamo ascoltati Grace. Adesso andiamo avanti ritornando a un po' di blues italiano, tra l'altro un blues che si mescola con il jazz, lo swing degli anni 20-30, un gruppo interessante che si chiama Red Wine Serenaders, e il CD è intitolato Doc, un gruppo formato da Veronica Sbergia, una cantante che ho avuto il piacere di promuovere più volte come leader di propri progetti discografici, che non solo canta ma che suona anche l'ukulele e il kazoo, poi Alessandra Cecala alla voce e al basso, Max De Bernardi alla voce, al mandolino, all'ukulele, e poi Mauro Ferrarese alla voce, alla chitarra acustica, alla chitarra 12 corde, e poi Marcus Tondo all'armonica. Un gruppo molto simpatico, molto interessante, che stasera potremo ascoltare in un pezzo intitolato In My Girlish Days, ed è un pezzo scritto da Wallace. Buon ascolto quindi con il gruppo di Red Wine Serenaders dal CD Doc. bene, questi erano i Red Wine Serenaders, una band formata da Veronica Sbergia alla voce, poi all'ukulele e al kazoo, Alessandra Cecala alla voce e al basso, e poi Max De Bernardi alla voce, al mandolino, all'ukulele e poi alle chitarre, Mauro Ferrarese alla voce, alla chitarra acustica, la chitarra 12 corde e altre chitarre, Marcus Tondo all'armonica. Il pezzo che ci siamo ascoltati era intitolato In My Girlish Days, un pezzo di Wallace che è stato interpretato veramente in modo molto interessante, molto sentito, da Red Wine Serenaders, questa band che suona blues e che suona anche vecchio jazz, la old style del jazz degli anni 20 e 30. Il CD è intitolato Doc ed è stato pubblicato dalla Totally Unnecessary Records. E adesso passiamo a Dave Elvin and Phil Elvin dal CD Common Ground, una accoppiata interessante che si presenta per la prima volta nel mio programma e che stasera potremo ascoltare in Stuff They Call Money. Dave Elvin and Phil Elvin dal CD Common Ground. Buon ascolto. You must have the stuff they call money. Yeah, you must have weighing down in your pocket. Yeah, you must have the stuff they call money, or you can't ride in here. Now I asked a girl, let's go have some fun, and this is what she said. Must have the stuff they call money. Yeah, you must have weighed down in your pocket. Yeah, you must have the stuff they call money, or you can't ride in here. I went home Nashville, but you can't live here no more. 'Cause you must have the stuff they call money. Yeah, you must have down in your pockets. Yeah, you must have the stuff they call money, or you can't live here no more. Bene, questi erano Dave and Phil Alvin dal loro CD Common Ground, un CD gradevole con questi cori che i due vocalist e chitarristi riescono a vivere con grande empatia e con una complicità di gruppo interessante, gradevole il sound di questo gruppo. Noi ci siamo ascoltati Stuff They Call Money, e ricordo il titolo del CD di Common Ground, Dave Alvin and Phil Alvin. Adesso andiamo avanti con una cantante molto interessante, con un bel timbro, una bella carica, una bella forza, e si tratta di Eden Brandt. Eden Brandt ha realizzato nel 2010 un CD intitolato Ain't Got No Troubles, dal quale noi stasera ci potremo ascoltare il pezzo proprio che dà il titolo all'album, Ain't Got No Troubles. Buon ascolto con Eden Brandt. Ain't too refined. No, I ain't got no troubles on my mind. I ain't got no boss man, ain't likely to get high. Ain't seeking no position, it's doubtful I get by. Ain't looking for promotion, got no job to resign. I ain't got no troubles on my mind. Troubles, no troubles. with sin. No preacher or congregation telling me I must repent. I ain't got no confession to offer the divine. No, I ain't got no troubles on my mind. Ain't got no plans, just possibilities. Ain't bothered with the past or my history. Ain't got no regrets that's keeping me behind. No, I ain't got no troubles on. Ebbene, questa era la grande Aidan Brent, veramente una cantante di grande valore, un timbro particolare, originale, interessante, vive sempre ogni interpretazione con grande partecipazione interiore, con grande capacità espressiva, veramente molto brava. Noi ci siamo ascoltati Ain't Got No Troubles, il pezzo che dà il titolo all'album pubblicato nel 2000. E dopo la bravissima Aidan Brent concludiamo la serata con i famosissimi ZZ Top, e stasera dal CD The Best Blues and Ballads ci potremo ascoltare Low Down in the Street. Buon ascolto quindi con ZZ Top. Just loves those rhythm and blues. And Bene, abbiamo chiuso in bellezza con gli ZZ Top dal loro CD The Bass Blues and Ballads e ci siamo ascoltati questa Lowdown in the Street che ci ha portato una parte dell'espressività, della particolarità di ZZ Top, che tra l'altro in questo CD chiaramente esprimono molte delle loro varietà musicali. E come sempre l'appuntamento è a martedì prossimo, quindi ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci e da Blues Fires.